Ascolto il nostro gruppo, promuovo il nostro gruppo, canzoni del nostro tempo, i vinili a nostro modo in un certo senso. Parlando del nostro gruppo, far parte del nostro gruppo e anche stare in un altro posto non è fare cose insieme ad ogni costo. L'unico microsolco che solchiamo, l'unico palco che calchiamo è qualche traccia digitale salita sulla rete, è qualche impronta digitale lasciata su tastiere. L'unico grande studio in cui proviamo, l'unico stadio che riempiamo è questa stanza familiare trovata con la rete, la vecchia casa originale piena di tastiere. A noi basta così e non ci basterà mai, a noi serve così e non ci stancherà mai, non ci passerà mai. L'unico impianto voci in cui cantiamo, le uniche luci che accendiamo sono queste tracce digitali postate nella rete, diffuse in onde radio che viaggiano per la rete. Ascolto questa storia, la imparerò a memoria, pensieri del nostro tempo uniti a nostro modo in un certo senso, un certo senso, un certo senso. L'unico microsolco che solchiamo, l'unico palco che calchiamo è qualche traccia digitale salita sulla rete, è qualche impronta digitale lasciata su tastiere. A noi basta così e non ci basterà mai, a noi serve così e non ci stancherà mai, non ci passerà mai. L'unico grande studio in cui proviamo, l'unico stadio che riempiamo è questa stanza familiare trovata con la rete, la vecchia casa originale piena di tastiere.